you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Allora, stiamo insieme fino alle 10:00 24:00 24 per intervenire come sempre in diretta. Milano, Monterosa, discreto. Un filo di sole che sta venendo fuori, ci avevano detto che ci sarebbe stato un sacco di nebbia, ma vedo che questa nebbia viene... Anche se noi adesso non vorremmo vedere il bel tempo, ma vorremmo vedere, vediamo se sei preparato. Abbiamo la pioggia, dobbiamo dirlo. Il vento. Però io non riesco ad allinearmi a niente, non te ne frega niente dello smog. No, me ne frega moltissimo. Preferisci respirare PM10 o come sono adesso PM2,5 perché sono ancora più sottili piuttosto che avere un po' di pioggia. È solo che preferisco morire col sole, ecco, diciamolo così. Cioè, giusto, visto che morire si deve, preferisco come morire. Essere in disaccordo con te, no? Come si fa? Alla faccia di tutti i climatologi, di tutti i medici, di tutte le cose. Ieri abbiamo sentito Mercalli, insomma. Ho imparato anch'io che bisogna far sì che piova, perché così scendono le polveri. Però io sono convinto che la cosa che ho detto ieri con Mercalli prima o poi si realizzerà, cioè dei grandi ventilatori, non costa niente a livello tecnologico. Ventilatori che... Ma vai alla Media World, ce l'hanno, insomma. Ah, tu dici risolvi un problema di tutto il mondo andando a Media World e comprando due o tre ventilatori, magari uno di quelli anche con l'attacco alla macchina, così si consuma benzina mentre acceleri, fai funzionare il ventilatore e via queste polveri sottili. Sono sottili apposta. Allora, cari ascoltatori, tra poco iniziamo con il riepilogo un po' delle notizie di questa settimana. Come sapete, in questo formato domenicale da un po' di tempo scegliamo così di raccontarvi un po' com'è andata questa settimana sul fronte delle notizie. Poi cerchiamo sempre di infilarci dove è possibile qualche bella storia, qualche buona pratica, un po' di quelle che si può fare. Ma soprattutto è l'ultima puntata prima di Natale questa, Alessio. Regali? Tu ormai tra figli hai anche raddoppiato il tuo Natale, quindi è per quello che dobbiamo sbrigarci, perché dobbiamo andare tutti a comprare i regali. Io sono indietrissimo, si può dire, però è così, sono proprio indietrissimo sui regali. Non hai ancora fatto niente? No, c'ho mamma, 4 fratelli, 10 nipoti, però un disastro. Però in questo caso avere fratelli e sorelle aiuta, perché ieri mi hai confessato che si facciamo può delegare squadra, anche. Facciamo squadra. Sì, detto così va bene, mandi tua sorella a fare i regali. Io metto i soldi, questo volevi dire? Sì, è vero, speriamo che le mie nipotine stiano dormendo e non stiano ascoltando in questo momento, anche perché ovviamente i regali li porto a Babbo Natale. Cerchiamo un personaggio della settimana, 800 24 00 24, il quale è coinvolto in una storia di Natale. Questo è il primo indizio, cioè c'è un personaggio che questa settimana ha una notizia che lo riguarda, che noi cerchiamo, se lo indovinate vi portate a casa i biglietti e il catalogo della mostra Gauguin. Esatto, uno può dire vabbè, ma in questa settimana tutte le notizie bene o male hanno a che fare con Natale, ma questo è proprio Natale. La storia di Natale. Un attimino l'ingegno e vedete che ci potete arrivare. Vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Allora, questa settimana c'è una notizia, partiamo da gli esteri, no? Gli esteri, okay. Partiamo da lontano per tornare a casa nostra. Torniamo. Che se ne parla poco spesso sui giornali, insomma, si è sempre un po' distratti rispetto a quello che accade nel mondo, salvo poi dire, beh, ma in Libia, il caos della Libia, arrivano tutti da lì, l'immigrazione passa di lì, non c'è controllo, c'è... E, di solito, e poi si inizia a parlare di Gheddafi a quel punto, degli errori fatti da lui, Gheddafi non andava eliminato. Che abbiamo fatto noi, forse. Allora, questa settimana c'è stato prima, a fine della settimana scorsa, inizio settimana questa, il vertice a Roma sul Mediterraneo, Mediterraneo, che ha gettato le basi un po' per quello che poi è avvenuto dopo a Skhirat in Marocco, dove insomma, le due, almeno due fazioni, che il governo di Tripoli e quello di Tobruk in Libia, hanno raggiunto un accordo grazie alle mediazioni dei vari mediatori internazionali, anche noi italiani, anche noi italiani, un ruolo anche dell'Italia, su un governo di unità nazionale in Libia. Qualcuno dice non è un accordo un po' fantoccio, perché in realtà le fazioni sono più di due, le stesse fazioni hanno detto sì di facciata, ok, facciamo questo governo internazionale, ma poi sotto sotto ci sono trattative, ci sono i califfi, ci sono appunto fazioni militari armate una contro l'altra, e quindi in realtà la Libia è lontano da essere risolta come questione. Però c'è questo accordo che potrebbe, diciamo, un po' facilitare la situazione. Sentiamo, prendiamola per buona, sentiamo il ministro degli esteri Gentiloni a proposito di questa situazione qua. La ricetta nel medio periodo è quella di una Libia stabile e unita, e il ruolo che l'Italia svolgerà per la stabilizzazione della Libia sarà il ruolo che ci spetta per ragioni storiche, geografiche, per la scelta politica che vogliamo fare, e si baserà sulle decisioni delle Nazioni Unite e sulle richieste del governo di accordo nazionale che oggi abbiamo deciso tutti insieme di sostenere. Allora, ripeto, qualcuno, io ho letto qualche analisi, così qua e là dicono, qualcuno analista dice un governo di unità nazionale che potrebbe servire forse solo a spianare la strada a un intervento militare un'altra volta, insomma, sotto legge delle Nazioni Unite, ma forse giusto a quello, cioè a cercare un appoggio dall'esterno più che a governare la Libia, che sembra ancora ingovernabile, sì, a chiedere un aiuto dall'esterno, e questa potrebbe essere la strada che si delinea per la Libia. Cioè, noi, un governo di modo che ci chiami in aiuto? Qualcosa del genere. Cioè, l'abbiamo fatto noi per dire, poi lui ci dice vieni ad aiutarmi. Prima di andare via lasciamo lì il numero di telefono, insomma. Sì. Se hai bisogno chiama comunque. Una cosa del genere, esattamente. Noi invece in Italia, la Camera, abbiamo vissuto anche di questa polemicuccia sul fatto che l'onorevole Giarrusso del Movimento 5 Stelle, in un dibattito parlamentare sulla questione del ruolo dell'Italia in Medio Oriente, in Siria e in Iraq, ha confuso la collocazione di Mosul mettendola dove non era questa città. Mettendola in Siria e invece è in Iraq. Cose che capitano. Signor Presidente, non è credibile che noi mandiamo un contingente di uomini Mosul, che è la roccaforte in Siria, la roccaforte in Siria dell'ISIS, per che cosa? Per una diga fatta male? Cioè, io un po' lo capisco, perché preso dalla verve, no? Dalla voglia di, si può dire, sputtanare il governo e di dire ci sono gli interessi, andiamo lì solo per gli interessi, gli è sfuggito un particolare. Sì, più che un particolare, secondo me, che in questo momento ciò che è ISIS è come sì. Se fosse, è sbagliato, è ovviamente una lettura sbagliata, però è come se fosse la Siria, quindi e l'ISIS si allarga e quindi diventa tutta Siria. Ha avuto gioco facile Renzi ed è stato anche molto bravo, perché semplicemente ha preso la palla al balzo e nel momento in cui tu ti alzi in Parlamento, sì, parli e fai uno strafalcione come, sì, questo, diciamo, sei squalificato per lo, sai, strafalcione, cosa? Invece magari qualcuno doveva comunque occuparsi di dire è giusto o non è giusto mandare questi militari per questa diga, al di là se sia in Iraq o in Siria, è sicuramente è in che Iraq. Secondo me quello del Movimento 5 Stelle, che sui temi italiani, sui temi dei comuni, delle amministrazioni, stanno dicendo la loro, e secondo me molte di queste polemiche sul fatto che non amministrano bene le città sono montate, e invece sono anche dei buoni amministratori. Sull'estero, sui temi internazionali, su queste questioni qua, sembra che siano un pochino più impreparati. Questa può essere una sensazione. Certo, in questo caso Giarrusso l'ha confermata. Ti devo leggere un SMS brevissimo che dice: so chi è il personaggio, saluti da Pietro. Chiamaci, l'unica cosa che viene a dire è chiamaci, però mi sembra molto bello perché sembra molto minaciososo. Gli SMS, come sempre, potete mandarceli al 349-238-6666. Abbiamo anche Renzi? Sì, sentiamolo. Senatore Giarrusso, senza alcuna diatriba e polemica, ma sostenere che noi aderiamo all'invito di Obama di mettere gli stivali in Siria intervenendo a Mosul è una contraddizione. Mosul è in Iraq. Mosul è in Iraq da tempo, peraltro. Vabbè, ha risposto giusto. Qualcuno poteva anche dirgli, però guardi, signor Presidente, che si dice diatriba e non diatriba, perché esiste anche questa diatriba, peraltro. Ah, si dice diatriba, è vero. Io no, ci insomma, casco sì, diatriba. Ormai ha ammesso, direi, anche diatriba, però il corretto sarebbe diatriba. Allora, 800 24 00 24, prima di saltare su un altro argomento, sentiamo un paio di ascoltatori. Egle, che chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, cosa vuole intervenire, Egle? Io la risposta che pensavo di poter dare. Sì, al personaggio della settimana. Esatto. Chi è? Un simpatico cardinale, Bertone. Il cardinale Bertone, per quale notizia? Per quale motivo? Ha allargato l'attico? No, per la donazione che ha fatto all'ospedale. Sì, è vero. Al Bambin Gesù. È stata annunciata questa cosa qua di una donazione, credo, di 150. 30, mi sembra 130.000. Sì. 150.000 euro. Ho sbagliato io di sicuro. E bene, ma non era lui. Non era lui, anche se in effetti sì, è un super personaggio. Bertone è una storia di Natale. Però non era. È una storia che non so esattamente da dove venga. Nel senso, nei momenti viene in cui da prima del Natale, viene, no, dal suo viene da prima, però sì, mi sembra che sia uscita anche questa notizia, perché poteva essere una riparazione nei confronti di altre questioni. Quindi non credo che sia semplicemente una buona notizia, però non ho capito esattamente. No, viene dal fatto che lui è rimasto coinvolto nella fuga di notizie dell'inchiesta sul Vaticano, l'inchiesta interna degli scandali finanziari del Vaticano, e quindi sicuramente questa notizia era riparativa, mi sembra. Questa donazione, anche comunque, se non viene detto apertamente, però comunque Egle, grazie, non era lui, non grazie era Bertone. Mille. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che ha una storia di Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Allora, abbiamo ancora un'ascoltatrice, Doriana, che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Perché cosa? Io ho pensato che il personaggio potrebbe essere il parroco di Antey-Saint-André sotto il Cervino, che dice ai bambini che il Babbo Natale non esiste. Mm-hmm. Si sono scatenati i genitori, la disillusione. Ma è una buona notizia? No. Condivido. Secondo me non è una buona anch'io notizia. Condivido, perché vabbè, io credo ancora tuttora a Babbo Natale, quindi non mi farete cambiare idea. No, perché penso che sia stata calata così, ma con la gamba dritta si è entrato. Esatto, ma anche perché uno potrebbe ricambiare dicendo che anche Gesù Bambino non esiste. Però diventa tutto globalizzato, dico. È l'angolo dell'ateo questo? Sì, questo è il mio personale. Insomma, in effetti questa è una notizia che ci stava tutta, Carlo? Sì, perché... Assolutamente, ce l'hanno segnalata anche via SMS, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. Era un bel trappolone questo, esatto. Un bel trappolone. Grazie comunque Doriana per aver giocato con noi. E ricordiamo a tutti che Babbo Natale esiste. Allora, 800 24 00 24, continuate a chiamare per individuare, indovinare il personaggio. Ne abbiamo un'altra di chiamata? Sì, facciamola subito. Flaminia da Roma, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Vabbè. Molto bene. Lei? Io raffreddatissima. Ah. Senti, io chiamavo perché mi è venuto in mente, stavo a letto, mi ero appena svegliata, però non so il nome di quella coppia il cui marito si è ripreso l'ex moglie dopo 25 anni, perché lei è malata. Ma dove, in Italia stiamo parlando? Sì. Sì, stiamo parlando in Italia, in Alta Italia, ma non mi ricordo il nome. Quindi c'è una donna malata che è stata ripresa dall'ex marito dopo 25 anni di separazione. Dopo 25 anni, lei viveva in Germania. Sì. E lui ha saputo che era molto malata, lei viveva in una casa vecchia e ha deciso di risposarsela per farla vivere nella sua casa popolare. Ah, che storia incredibile. Davvero. Che storia incredibile. Lei si chiama Maria Rosa Daru e lui Ruggero Priarollo. e la storia l'hai raccontata benissimo, benissimo, ci siamo contenti di, però non era lui, non era lui, non però era, siamo contenti di aver raccontato questa storia molto bella. Io questa non l'avevo proprio sentita e forse avendola magari individuata poteva essere una scelta, no? Assolutamente. Quindi a questo punto ha vinto il posto come nostro consulente, la chiameremo tutte le domeniche per scegliere il personaggio della settimana. Allora, questa settimana ci lascia anche una sentenza della Cassazione sul caso Cucchi. Sono state annullate l'assoluzione, è stata annullata l'assoluzione di 5 medici disponendo un processo d'appello bis per omicidio colposo. Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre del 2009, è deceduto dopo una settimana all'ospedale Pertini in condizioni incredibili. Assolti invece definitivamente 3 agenti della polizia penitenziaria, così come 3 infermieri dell'ospedale Pertini e anche un 6° medico. Sentiamo la voce della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, che di questa battaglia per avere una verità di giustizia, come tanti altri casi di mala giustizia italiani e soprattutto come dire, un caso in cui, Carlo, aiutami con le parole, perché questo caso è sempre delicatissimo, un caso nel quale tu entri in qualche modo all'interno del perimetro dello Stato, esatto, e ne esci morto. Finalmente sento parlare di pestaggio, dice Ilaria Cucchi, perché era sempre stato negato in realtà la questione del pestaggio, e questa sentenza della Cassazione ha questo merito secondo i familiari di Stefano Cucchi. Sentiamo Ilaria. Oltretutto, per la prima volta in 6 anni leggo scritto violentissimo pestaggio. Ecco, questo mi interessa al di sopra di tutto, che si abbia il coraggio di ammettere che era qualcosa di davvero molto grave e serio quello che fu fatto a mio fratello. 800 24 00 24, potete chiamare anche per commentare queste notizie, Carlo. Ma no, precisa la soddisfazione dopo tutti questi anni, perlomeno ammettere che quello che è successo fosse grave, non che fosse morto da solo per i fatti suoi, mi sembra fondamentale. Tra poco, dopo il GR delle 9, chiameremo Antonio Di Pietro, che sarà con noi coltivatore di olive a Montenero di Bisaccia, per commentare con lui, oltre alla questione delle truffe, delle recenti truffe sull'olio extravergine di oliva, note marche che vendevano olio extravergine ma non era extravergine, era olietto così, anche il fatto che ci sarebbe allo studio un decreto che quasi depenalizza proprio questo tipo di truffe, cioè della serie facciamoci del male. È perfetto avere Di Pietro adesso all'interno dell'agricoltura per chiedergli questo tipo di informazioni. Lui si è messo questo a fare del resto e quindi lo vogliamo sentire su questa materia qua. Adesso abbiamo ancora ascoltatori sul gioco. Sì, Marilena da Sanremo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io ho pensato al personaggio Salvini, che ha partecipato alla recita nella scuola di sua figlia vestito da Re Maggio. Quindi in argomento col Natale. Natalizia, giusto, come storia, Salvini, personaggio, ci sta, la notizia c'è tutta. Infatti ci chiedevamo come mai Salvini, personaggio natalizio, però effettivamente avendo interpretato un Re Maggio. No, non ha vinto perché non era il personaggio che abbiamo scelto, ma abbiamo ricordato questa storia di Salvini. Grazie Marilena, mi sta andando via la voce, ci salutiamo qua, ci sentiamo dopo Natale. Ciao a tutti. No. Marino da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Prego. Ah, senta, io ho pensato a un bel personaggio che ha caratterizzato la nostra infanzia. In realtà è un artigiano, si chiama Giuseppe Paina, che praticamente costruisce questi binocchi in legno e ha avuto una commessa dal Giappone, l'ha rifiutata, e lui si è trasferito a Collodi e costruisce questi giocattoli contro qualsiasi giocattolo tecnologico. È stato molto apprezzato. E come mai ha rifiutato questa commessa straniera? Perché insomma secondo me gli stranieri non possono appropriarsi anche delle tradizioni, cioè voglio dire, i cinesi copiano tutto, però le tradizioni no, questo che ma pensavo fosse una commessa nel senso un ordine di Pinocchi. Sì, volevano rubargli i segreti costruttivi, certo, e lui ha rifiutato, insomma, proprio per l'amore del giocattolo italiano, del giocattolo artigianale. Cioè, siamo felicissimi di aver raccontato una questa storia, ma non questo. È il personaggio no. della, nostro no, della ma settimana. Ma immaginavo di sì, però. No, no, però invece poteva essere. Beh, anche questa, vedi, è una bella storia, ne vengono fuori tante. È il bello di cercare sì. un personaggio alla settimana è questo, che sì, molte sì, volte sì. i personaggi che proponete sono bellissimi e comunque sia è bello raccontare le loro storie. Allora, diciamo anche questo, che noi stamattina dovevamo sentire John Peter Sloan, doveva essere con noi, testimonial del telefono azzurro sulla campagna contro il bullismo, perché purtroppo questa settimana l'Istat ci ha dato questa notizia che il bullismo tra i giovani è in aumento, però John Peter Sloan... Io è tutta la notte che studio l'inglese e non è servito niente, ripasso il mio inglese ma non è servito perché invece non ce l'abbiamo al telefono. Non ce l'abbiamo al telefono, però ci abbiamo l'audio di questa campagna, sentiamolo, sentiamolo con Ale Franz. Se a scuola qualcuno ti sta prendendo in giro o ancora peggio ti sta mettendo le mani addosso, ti prego, parla con qualcuno perché tu non sei solo. No, ma neanche tu sei solo, guarda. Non sei solo. Non sei solo. Come dice John, non sei solo. No, giusto. Ci siamo anche noi, c'è John, c'è Ale, c'è Franz. C'è Franz. Oppure c'è tua mamma, o tuo papà, o l'insegnante. Non mi interessa, basta che tu ti fidi di quella persona lì. Perché il bullismo, se non lo fermi adesso, dura una vita, ti rovina la vita, giusto? Hai ragione, esatto. Esatto. Quindi stop al bullismo. John Peter, dove sei? Non risponde al telefono. Volevamo commentare con lui questa campagna e cosa si sta facendo, come si stanno sensibilizzando i ragazzi nelle scuole, anche tramite il suo giro, diciamo, per l'Italia come insegnante di lingua. È un problema grosso questo, il bullismo. Due settimane fa ero a Siena, all'Università di Siena, a parlare esattamente di bullismo, cyberbullismo, omofobia, al Dipartimento di Sociologia, ed è una questione che viene molto studiata e molto... È un problema grosso anche che John Peter Sloan non ci abbia risposto al telefono. Certo, certo. Anche perché uno dice, se hai bisogno dicelo, però poi non rispondi al telefono. Sì. Uno dice, come faccio a dirtelo? Io mi fido di te, John Peter Sloan, però... Così vabbè, ovviamente stiamo scherzando. Va bene, chiudiamo con una telefonata al primo blocco, poi andremo dopo il giornale radio a parlare di olio extravergine, non facciamoci fregare. Rosario da Catanzaro, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Tutto bene? Sì, molto benissimo, bene. Benissimo. Rosario. Buongiorno, senta, io sto scendendo dalla Svizzera. Sì. E volevo dare il premio a Renzi per questo. Abbiamo lasciato famiglia, abbiamo lasciato tutti quanti i nostri affetti in Calabria. Sì. Ah, lei è emigrato in Svizzera? Lei è emigrato in Italia? Sì, no, lei è emigrato in Svizzera, è questo? Sì. Ma da 2 mesi a questa parte. Quindi per colpa di Renzi? Colpa di tutti. Di tutti. Ma adesso sta scendendo. Sto scendendo in Calabria. In Calabria per le vacanze. Sì, per le vacanze. Si torna a casa per le vacanze. Stava dicendo ora ha uno stipendio? Sì, Renzi, tutti i parlamentari hanno uno stipendio veramente eccezionale. Io vorrei portarli con me nei cantieri. Fargli veramente lavorare per. Dobbiamo chiudere, Rosario, però mi dispiace, dobbiamo chiudere perché c'è il giornale radio. Grazie per questa telefonata estemporanea, ma ci sta, noi siamo aperti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Franco Ricciardi, Jake La Furia, Granatino, è tutto made in Italy. Made in Italy, zio. Made in Italy, conta solo money. Made in Italy, no, quando sono pochi. Made in Italy, e la gente muore ma c'è la televisione, ok? Made in Italy, sei vestito ad hoc. Ricciardi, made in Italy come Gucci e Trussardi. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Allora, e buongiorno anche ad Antonio Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo qua, l'abbiamo annunciato per parlare con lui dell'olio extravergine italiano, il made in Italy, e quelle preoccupazioncine che ci sono, perché sembra che siamo sempre in grado di farci del male da soli su queste cose. Di Pietro, però prima le voglio chiedere, sta pendendo un treno tra l'altro, adesso vediamo di non sforare nei tempi, però le voglio chiedere un commento sulla Boschi. Lei quando era ministro si dimise subito appena arrivò un avviso, in quel caso sì, di garanzia, che lei non ha, che la Boschi non ha. Però che ne pensa di questo caso? Premesso che neanche a me arriva un avviso di garanzia. Ah scusi, mi sono sbagliato. Che cos'è che arrivò? Cos'è che arrivò? Un coinvolgimento in un'inchiesta? No, arrivo niente. Si cominciò a dire che io ero padre di, figlio di, eccetera, eccetera, per il caso. Il concetto però è questo. Mi permette di non di fare il difensore d'ufficio della Boschi, ma di dire esattamente quello che penso. Io penso che delle due l'una, o la Banca Etruria è stata favorita dall'azione del governo, nel senso che il governo ha fatto quel provvedimento nell'interesse dei soci, degli amministratori della Banca Etruria, perché c'è stato un provvedimento di governo, non un provvedimento della Boschi, un provvedimento del governo di cui faceva parte la Boschi, ma è un provvedimento collettivo. Allora, se noi sosteniamo che il governo ha favorito la Banca Etruria, la sfiducia si chiede a tutto il governo, perché è un atto collegiale. Ma la sfiducia individuale in questo caso tu lo puoi chiedere soltanto se dimostri tecnicamente che solo lei e proprio lei, senza altro concorso, ha fatto un atto a favore del padre. Quindi o tutto il governo o tutto il governo niente. Non nessuno, perché sennò questa cosa sulla persona alla fine glielo fai perché è bionda, bruna e altro, cioè, fatto. È la posizione di Berlusconi questa, se non sbaglio, che dice. Ma torno a ripetere, io ah, sì, Di Pietro e Berlusconi d'accordo? No, la stupidaggine di quel che viene detto, io mi perdono la brutalità con cui gliel'ho detto. Il concetto è questo, che quanto non è colpa mia se qualche volta Berlusconi ma ci mancherebbe altro. No, dico non è colpa mia se qualche volta Berlusconi la pensa come me. Al di là delle battute dico questo, non è la posizione di Berlusconi, per me è la posizione del buon senso. E allora a tirare troppo la corda si fa passare per vittima chi vittima non è, perché non v'è dubbio che quel provvedimento preso dal governo per come far ripianare i conti della Banca Etruria, io non lo condivido assolutamente, perché non si può far pagare a chi ha messo i soldi in una pensione, la speranza di una vita, far pagare i danni degli amministratori e quant'altro. Quindi che deve trovare una soluzione diversa va bene, che c'è una responsabilità politica del governo, sono più che convinto, che se si vuole avere una prova del coinvolgimento del governo, si propone la sfiducia di tutto il governo, ma che si metta caso per caso a sputtanare persone non sono convinto. Ma perché nessuno riesce mai a mettere in riga le banche, nessun governo, ogni governo di turno che si trova in quella situazione ha questo tipo di problemi con le banche? Torno a ripetere, perché io sono convinto che le banche, il sistema bancario, come anzi il sistema finanziario di cui fa parte anche il sistema finanziario, è quel che ha più potere dei governi. I governi passano, le banche restano e quindi sono quelli che girano, si dice la girano ma non la toccano. Quindi la politica non serve più a un piffero da questo punto di vista. Personalmente, allora, che la politica sia necessaria in un paese democratico per affermare democrazia e legalità è una cosa che abbiamo studiato a scuola, che di fatto oggi, e dovrebbe essere così, anche l'articolo 1 della Costituzione ce lo dice, ma che di fatto attualmente una politica le cui persone si trovano lì per grazia ricevuta, senza arte né parte, e che quindi il primo scopo è quello di resistere il più possibile nella loro posizione personale, è chiaro che le decisioni vengono prese per salvaguardare se stesse più che gli altri. Lei noti una cosa, viene proposto il voto di sfiducia all'interno dello stesso partito, all'interno dello stesso partito, la stessa coalizione, se ne dicono di tutti i colori, quando poi c'è da dire mandiamolo a casa, tutti quanti si scordano di alzare la mano, dice noi votiamo, allora non ho capito che modo di fare questo, perché poi vai a casa pure tu. Senta Di Pietro, invece sulla questione, lasciamola lì la Boschi, tra l'altro tra poco sentiremo anche le voci della settimana dopo che abbiamo salutato Di Pietro. Invece, anche perché noi Di Pietro lo sentiamo in quanto agricoltore. Perché anche come sempre una sua opinione sull'attualità è interessante, perché ha sempre qualche cosa da dire. Come produttore di olive e di olio, come la mettiamo? Perché adesso va male lo scandalo dell'olio, alcune note. Note marche di olio extravergine che avrebbero venduto, deve essere ancora dimostrato, ma insomma olio che extravergine non era affatto, quindi diciamo una truffa alimentare. Poi si viene a sapere che c'è un decreto legislativo allo studio alla Camera che andrebbe sostanzialmente a depenalizzare, cioè rendendo questo tipo di contraffazione un illecito anziché un reato, cioè si paga una multa e via. È possibile che ci facciamo del male così? Ma non è che è possibile si facciano del male. Lì, come al solito, sono le multinazionali, sono le persone che poi finanziano la politica, che in un modo o nell'altro fanno inserire all'interno di quell'articolo un commino, un comma piuttosto che altri, che rigira tutto. Lei pensi un attimo, quando hanno reintrodotto il falso in bilancio, sembrava tutto bene, finalmente chi evade le tasse falsificando il bilancio può essere punito, e poi ci hanno inserito che il falso in bilancio non vale se si tratta di falsità nelle valutazioni. Solo lì ci stanno le falsità, 2 più 2 lo sanno tutti, fa 4. Se tu dici che una macchina invece di 100 vale 1000, se devi mettere una postazione nell'altra, è chiaro che quella è una valutazione, ma quella non è falso in bilancio. Vedete, quindi, la furbizia. Io sai come la chiamo questi comportamenti? Come? La chiamo che non è un comportamento né colposo né doloso, va oltre la precostituzione della buona fede. Mi faccio una norma in modo tale che quel che è reato non è più reato. Perché malattia non è più malattia, ma quello morirebbe il paziente. Cioè, praticamente sarebbe un po' la resa a questo concetto, per esempio, a questa realtà ultima della truffa delle grandi marche che contrabbandavano olio extravergine, che non era per olio extravergine, e sarebbe come dire, vabbè, continuate a farlo. Questo è un modo, è quello che è il risultato, perché di fatto, se tu dici che vendi l'olio extravergine a 4-5 euro al litro, non può essere extravergine, perché non ti basta quella somma neanche per pagare chi te la raccoglie. Quanto sarebbe il prezzo secondo lei che lo produce l'olio? Quanto è il prezzo? Il prezzo di chi produce l'olio, anche soltanto il prezzo, non è minimo meno di 8-9 euro, anche 10 euro al litro. Se tu lo vendi a 4, vuol dire che lì di vergine è rimasto soltanto la preghiera della Madonna, perché è lui che è rimasto. Però e noi quando lo compriamo speriamo sempre che sia il famoso sottocosto, che sia il prodotto civetta, e quindi lo compriamo con fiducia. Mi sa che Di Pietro sta salendo sul treno in questo momento. È vero. È scivolato, è sull'olio. Sì. No, grazie a Dio, sull'olio non si scivola. Qui si scivola sui binari dei treni. Aspetti, aiuto una signora le diamo... che è più combinata di me. Ah sì? Addirittura, cioè col telefono da una parte, la borsa dall'altra, aiuta pure la signora. Cioè, è un supereroe, sta diventando. Un politico che in realtà fa l'agricoltore. Ho scoperto il mio nuovo ruolo di portaborsa. Vuole che le diamo 2 minuti, sale sul treno, facciamo le informazioni sul traffico e continuiamo tra un attimo. Grazie, ecco, sì. A sentire meglio ancora. Facciamo una pausa tra 2 minuti. Buone cose, buone cose. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora questa è stata appunto la settimana nella quale si è discusso di questo, diciamo, il salvabanche, la questione del fallimento di queste 4 banche, evitato l'intervento del governo che ha fatto scatenare le furie dei risparmiatori e anche dell'opposizione politica in Parlamento. È stata la settimana nella quale si è discusso poi di tutto e si è concentrato sul caso Boschi. E allora sentiamo prima il centrodestra unito che annuncia una mozione di sfiducia a Renzi in tutte e due le camere. Sentiamo Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Domani presenteremo tutto il centrodestra unito alla Camera come al Senato una mozione di sfiducia contro il governo. Boschi è solo una figlia di questo governo, una figlia in conflitto di interessi, ma chi ha i più grandi conflitti di interessi è il presidente Renzi. Primo perché è abusivo, non ha mai vinto le elezioni. Ha solo vinto delle primarie chiacchierate. Secondo, perché si basa su maggioranze frutto della compravendita politica di parlamentari. Come poco fa diceva Di Pietro, anche Forza Italia la pensa così: se un conflitto di interessi c'è, ce l'ha tutto il governo e non solo il singolo e non solo Mariana Boschi. Durante la discussione sul voto di sfiducia nei confronti di Mariana Boschi, l'intervento di Ale Di Battista, Movimento 5 Stelle, vai. Il conflitto di interessi è grande come una casa per quanto riguarda il ministro Boschi, perché quando aumentava considerevolmente appunto il mercato delle azioni di Banca Etruria, il padre del ministro Boschi era vicepresidente di Banca Etruria. Il ministro Boschi non può pensare di cavarsela con una battuta durante la presentazione di un libro. Poi andiamo avanti con Salvini, anche lui schierato contro la Boschi sul conflitto di interessi per il salvabanche, che dà ragione a Roberto Saviano, il quale, diciamo, a sinistra è stato forse uno dei pochi che ha puntato il dito contro un ministro del Partito Democratico. Mi capita raramente di essere d'accordo con Saviano, ma in questo caso ha assolutamente ragione. Fosse successo a qualcuno della Lega del centrodestra, avremmo avuto girotondi, rivoluzioni, popolo viola, popolo lilla, popolo arancione. Quindi ha ragione Saviano. Per il rispetto che nutro nei confronti della Presidenza e di tutti i colleghi, mi limiterò ad esporre i fatti. I provvedimenti emanati dal nostro governo hanno in qualche modo, seppur indirettamente, favorito la mia famiglia? Questa è la domanda. C'è stato del favoritismo? Una corsia preferenziale? La legge non è stata applicata in modo uguale per tutti i cittadini? Questo è il quesito che viene posto. Forse vi stupirò, ma se la risposta fosse sì, sarei io la prima a ritenere necessarie le mie dimissioni. Io, come ministro, sono sempre stata dalla parte delle istituzioni. Non ho mai favorito la mia famiglia, non ho mai favorito i miei amici. Sono orgogliosa di far parte di un governo che esprime un concetto molto semplice. Chi sbaglia deve pagare. Chiunque sia, senza differenze. Se mio padre ha sbagliato, deve pagare. Su questo io non ho dubbi, perché nell'Italia che stiamo ricostruendo non c'è spazio per il favoritismo, non c'è spazio per i due pesi e le due misure. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire naturalmente anche su questo, noi siamo qua, vi aspettiamo. E anche sul personaggio della settimana che stiamo cercando, è una storia di Natale. Ripetiamo l'indizio. Allora, abbiamo parlato poco fa con Antonio Di Pietro sulla questione dell'olio extravergine d'oliva. Avete sentito, insomma, la notizia è questa, però bisogna dire anche dove rosa. La notizia è che c'è allo studio un decreto legislativo che dice questo: segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, chiuse le virgolette, non vengono più puniti con un reato, ma con una semplice infrazione, cioè con un illecito, come diceva Di Pietro, una multa da 1.600 a 9.000 e 500 sì, euro. In realtà, però, lo stesso governo, esatto, ha detto, ha fatto dire un passo questo indietro. In realtà è stata aggiunta una norma. Non è che se tu dici che olio italiano poi invece non è italiano, quella cosa lì resta, è reato, ci sono 2 anni di galera. Quello che hanno modificato è che se tu non dici niente, allora hai una multa. E diventa un po' troppo facile, perché uno dice: allora, invece che stare a dire che è italiano, io non dico niente. Ci metto una bandierina italiana così tutti pensano che sia italiano. Simbolo, o dentro nel mio simbolo, oppure il mio olio lo chiamo olio extravergine, proprio come marchio, poi in realtà dentro posso metterci anche la Coca-Cola. A quel punto becco solamente una multa, tra l'altro direi abbastanza irrisoria, da 1.000-9.000 esatto, euro. Quindi, perché nel momento in cui bisogna stringere la cinghia di più contro la contraffazione alimentare, lo dicono tutti i produttori, tutti quelli che lavorano nell'industria di distribuzione, di trasformazione, insomma, creare una scappatoia, esatto, come creare questa, una scappatoia, anche non se lieve sano e sfumata, insomma, no, bisogna fare l'opposto, cioè inasprire un po' i controlli, se non vogliamo inasprire le pene. Allora, abbiamo qualche ascoltatore? Sì, per il gioco 800 24 00 24. Poi volevo dire un'altra cosa, che riguarda, anzi la dico subito, che riguarda sempre il settore alimentare, perché lo sai che la novità di quest'anno è il panettone fatto di insetti, ma in realtà con la farina proteica da baco da seta. Sai che nel Lombardia, a Milano, c'era una grande cultura, una tradizione da questo punto di vista. Allora a Lodi, in un incubatore del settore alimentare che si chiama Alimenta, è nato il primo panettone al mondo, si chiama Panseta. Quest'anno va di moda il panettone fatto con la farina proteica da baco da seta. È un'invenzione di Marco Ceriani, esperto in nutrizione e benessere, che ha fondato una startup che si chiama Italbugs. Si può fare anche questo. Si può fare il panettone con la seta? Sì. Siccome tra poco sentiremo una storia di questo tipo, cioè una piccola startup, volevo citare anche questa che non lo intervistiamo oggi, però insomma era giusto dirla anche questa notizia. Lucilla Dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. Sì. Niente, io volevo parlare del personaggio che stavate dicendo di Natale, visto che fino a ieri si è parlato del ministro Boschi, io ho pensato a lei, non so se... Come personaggio di Natale? Diciamo... Sì, sì, voi avete fatto la domanda, qual è il personaggio... Beh sì, no? Sicuramente poteva essere, perché è una storia, anche se non è legata a Natale, siamo sotto Natale, quindi La notizia sulla Boschi c'è di sicuro, nel senso che noi cerchiamo sempre un personaggio, di solito o è un si può fare o è il contrario, non si può fare, quindi va benissimo, ma il personaggio di questa settimana non era la Boschi. Grazie Lucilla. Ma la ringraziamo molto. Grazie mille. Buona domenica, arrivederci. Allora, a questo punto diamo un altro indizio per giocare al personaggio della settimana. Il secondo indizio è che il nostro personaggio ha suscitato dibattito nei social network. E chi non l'ha fatto, peraltro? No, lui l'ha fatto, come non l'ha fatto? Ed è una storia di Natale. Mettete insieme, incrociate queste due cose qua e insomma, siamo già un bel pezzo avanti. Allora, abbiamo un altro ascoltatore, Maurizio da Torino, prima di andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io volevo fare questa osservazione da cittadino che osserva, diciamo, queste vicende legate al salvataggio, in questo caso delle banche, no? Sì. Questo discusso tantissimo in questi giorni. No, mi colpisce come cittadino che invece, rispetto ad altri problemi che toccano milioni di persone, per esempio l'annoso dibattito sulla questione della riforma delle pensioni, ma non è l'unico. Ci sono altri problemi, per esempio io ho un figlio che ha studiato ormai quasi 12 anni in conservatorio e scopro che grazie alla riforma, anzi alle varie riforme sulla scuola, non potrà che entrare in terza fascia per fare supplenze, pur avendo studiato 12 anni in un conservatorio, 10 anni del vecchio ordinamento più 2 anni di specializzazione. E tutte queste cose, ma ripeto, sono esempi qua e là, no? Oppure la questione annosa delle liste di attesa nella sanità. Qui in Piemonte abbiamo delle liste di attesa lunghe anni. Prima di e quindi lei dice di problemi ce n'è tantissimi. Colpisce che da un lato si trovano meccanismi per salvare appunto istituzioni come le banche, sì, che probabilmente ci sono tutta una serie di ragioni, io non sono un addetto ai lavori, un esperto, ma e non si trovano i fondi per fare tante altre cose. E non si trovano però invece soluzioni o comunque strade per aiutare i cittadini, no, a, come dire, facilitargli la vita, ecco, a non complicarla oltre una certa misura. Questo colpisce come la politica in generale sia davvero molto distante rispetto ai problemi dei cittadini. Colpisce anche la superficialità con cui vengono affrontati tutta una serie di temi. Io ho fatto alcuni esempi che... Va bene, Maurizio, grazie mille per questo intervento. Va detto che in realtà le banche, anche salvare le banche, la maggior parte delle volte va capito il motivo del voler salvare le banche, nel senso che la maggior parte delle volte è anche per ridare i soldi ai risparmiatori, quindi in realtà tutti i cittadini. Se invece salvare le banche, nel senso solamente le banche e non i correntisti, ovviamente è un problema. Abbiamo di nuovo Di Pietro, buongiorno. Buongiorno. Di nuovo buongiorno. Allora, salito sul treno, si è sistemato, ha aiutato la signora a salire con lui sul treno, ha fatto da portaborse in questo caso. Dopo sentiamo anche la signora, ovviamente. Sì, dopo la chiamiamo, sentiamo se conferma la versione di Pietro. Allora, non so se si vuole agganciare, ha sentito l'ascoltatore, però l'ha già detto prima, lei non condivide questo provvedimento del governo, insomma, su... Io condivido che quando c'è una situazione della banca di Tastrada si intervenga per salvaguardare le posizioni dei soggetti deboli. Sì. Non condivido la soluzione adottata perché appunto fa di tutta erba un fascio e lì dentro ci sarà qualcuno che voleva speculare e marciarci sopra pensando negli interessi usurai. Altri invece che ci hanno messo la loro pensione e si ritrovano senza che carta né parte, adesso non ci hanno mancato da mangiare. Però torniamo per chiudere l'intervista sulla questione che diciamo prima dell'olio extravergine d'oliva, di cui Di Pietro è produttore. Abbiamo detto insomma che questo decreto legislativo del governo, per quanto il governo poi abbia minimizzato e corretto un po' la rotta, non va, perché comunque anche se una piccola scappatoia la dà, non bisogna aprire nessuno spazio per la questione delle contraffazioni, anzi bisogna stringerli. Ma come si fa invece al contrario a mantenere sul mercato in piedi questa produzione? Perché lei ha detto prima, a 5 euro, a 6 euro al litro, a chilo, insomma, come si misura l'olio, non ci si sta dentro. Come si fa? L'olio si misura al litro, così dice anche un regolamento della Comunità Europea. Detto questo, io pensavo al chilo, quindi è perfetto. Sì, no, però la Comunità Europea dice che ci vuole, quando si vende, addirittura, non so se lo sa, ma si deve mettere in lattina di 5 litri e deve essere scritto solo appunto litro, eccetera. Ah, eccetera. Sì. Perfetto. Detto che c'è tutta una procedura, il povero contadino deve andare all'università per poterci capire qualcosa. Questo è il solito problema. È già questo, è per quello che lei si è messo a fare il contadino, giustamente, passando prima dall'università. No, ma lei, come sai, che è dibattuto anche il fatto che sia andato all'università o meno. Ah, certo. Chi ha sostenuto il contrario? I suoi detrattori, vabbè, lasciamo perdere. No, viva Silvio. E quindi? Allora, sto dicendo, per qua è passando dal sul serio. L'olio dipende da come lo fai. È chiaro che se tu l'olio lo raccogli in un certo modo, lo curi in un certo modo, ti costa e ti costa tanto. Se tu la raccogli sulla pianta, la raccogli senza farla cadere per terra, la raccogli quando è il momento giusto, non aspetti che non solo maturi ma diventa fragico, raccogli solo la parte più buona e in questo senso non metti elementi e materiale quando lo coltivi che possono rovinarlo. Soprattutto quel che succede adesso qual è? Che nell'olio quello che si valuta molto è l'acidità. Sì. Allora l'acidità attraverso reagenti chimici lo puoi abbassare, fai finta che è extravergine, ma quel vergine, cioè, è rimasto come la donna della corda anulare. Cioè, ecco, in questo senso vergine, allora, nemmeno sulla carta. Capisci quel concetto? Se invece, allora, qual è il problema? Anche per il grano, per esempio, il grano è chiaro che se arriva a centinaia di migliaia di tonnellate da altre parti del mondo, il sistema della globalizzazione ha prodotto tutto questo, perché arriva da tutte le parti del mondo materiale, materie prime di cui non conosciamo come vengono prodotte, non conosciamo quali sono le garanzie che danno a chi le produce, ma sappiamo che costano pochissimo. Sappiamo che costano pochissimo, poi ci mette l'etichetta e diventa italiano quel che di italiano è rimasto soltanto il prezzo da comprare. Senta, ma mi dice nemmeno quello, perché sono euro. Carmelo, il nostro regista, che lui lo paga 9 euro al litro, va bene 9 euro come prezzo? Non so che olio compra Carmelo. Umbro. No, ma guardi, in Italia c'è un olio spettacolare anche in Umbria, sì? 9 euro è un prezzo equo, nel senso che comincia a diventare un prezzo con cui lo puoi vendere. Ma se vai andate sull'autostrada, voi che ci ascoltate, state sull'autostrada, fermate a un casello, troverete che in mezzo all'autostrada, tra il cesso e il bando, cioè, si vende l'olio. Si vende tutto, euro, certo. 90, a 3 euro e 90. Ecco, manco la lattina ci compri. Manco la lattina. Beh, la lattina sì, su via, 4,90 euro. 1,50 ti costa la lattina, oui. 1,50 la lattina, quella costa 1,50. Poi c'è anche il tappo, non dimenticare, il tappo bisogna comprare. Certo, perché poi si va in macchina, non è che si può andare con 5 litri senza tappo. Poi anche il tappo dipende come ce lo metti, perché allora, in ottica di questo, se tu tieni l'operaio che ti raccoglie l'olio, lo tieni e lo fai raccogliere direttamente dalla pianta, l'operai lo tieni in regola, non c'è niente da fare, un operai tu 40-50 euro al giorno lo devi dare, però a te ti costa 70-75 euro. Allora, siccome per raccogliere una ventina di quintali di ulivo ci metti una squadra di 6 operai, raccolgono siano 15 quintali di ulivo, e ogni quintale di ulivo sta adesso, quest'anno, stava a 45-50 euro, alla fine della giornata, con l'ulivo che hai raccolto, ci paghi gli operai che l'hanno raccolto, e tutto il resto. Certo. Quindi chi fa oggi questo lavoro, Di Pietro, che possibilità? Cioè, lei ci sta dentro coi costi, per esempio, riesce a venderlo? No, io non ci sto dentro con i costi. Ce la fa per piacere, per hobby. Però il concetto è questo, per me è diverso, perché per me è una passione, ma quello che ci deve campare, come deve fare? Mio padre, con lo stesso terreno che ho io, quello che qualcuno ha trasformato in 56 appartamenti invece terreno, col terreno che ho io, mio padre ci ha campato 3 figli, io lo uso come passione. c'è una bella differenza sotto questo aspetto. E quindi quando lei sente parlare di, si dice, insomma, anche noi ne parliamo spesso con soddisfazione di ritorno alla terra da parte dei giovani, ci crede, la vede questa cosa qua o no? Ma il ritorno, tutto sommato, grazie a Dio, in Italia bisogna fare un monumento a chi si occupa di agricoltura, perché se lei va in giro non trova un pezzo di terreno, un ettaro di terreno che non è coltivato. E questo è un grande successo per il nostro paese, nonostante tutto. E perché? Perché appunto la qualità ancora resiste, ma non può resistere fino a molto se continuiamo a è il gioco delle multinazionali. Il gioco delle multinazionali adesso cosa fa? Fa che nella globalizzazione la qualità è scaduta e c'è una rincorsa a chi fa il prezzo più basso e impone il prezzo. A quel punto tu sei pregato, o mangi quella minestra o salto dalla finestra. La fortuna. Una volta il contadino, in campagna si diceva questo, il contadino non ha mai una lira in tasca, c'erano le lire, ma non muore mai di fame, perché grazie a Dio aveva la terra. Sì, certo. Adesso però il contadino rischia di scappare se deve come piccolo contadino, come anche il piccolo artigiano. Allora se lei comincia a vedere, anche qui si cominciano a vedere estensioni di ettari, 500 ettari, 1000 ettari, allora lì non è più quell'agricoltura biologica di una volta, finisce per diventare un'agricoltura altamente intensiva dove tu devi produrre a tutti i costi. Quelle che allevano i polli, io un pollo ci metto 4 mesi e mezzo per farlo diventare pollo, anche 5 mesi. Fa anche polli di Pietro, c'è anche polli, conigli, c'è per tutto. Per mangiarmelo io, sì, adesso prima, sono sul treno ma me lo sto riportando a casa. Ma perché lo convince a parole? Ci mette 4 mesi e mezzo perché lo convince a parole? No, perché lo lascio coltivare in campagna per terra e lo faccio camminare. Stiamo perdendo la linea, ma io credo che Di Pietro abbia detto che sta andando in giro con un pollo. Ha detto me lo sto portando io. Ho capito bene? Lo sta convincendo che è un pollo, peraltro, perché ha detto che ci vogliono 4 mesi e mezzo per farlo diventare pollo. Sta convincendo a non andiamo oltre, non andiamo a entrare dove? Nella pentola. Grazie Di Pietro, buona domenica. Allora, dobbiamo fare la pausa o sbaglio? Sì, poi ascoltatori sul gioco 800 24 00 24, una storia di Natale, un personaggio della settimana che è una storia di Natale che ha fatto discutere sui social net. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Antonio da Cagliari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Volevo provare a indovinare, sì? Ma non sono sicuro che sia una notizia freschissima. Era la devoluzione di Mark Zuckerberg di gran parte delle proprie azioni. Certo, che è stata annunciata in occasione della nascita della figlia. Cioè, che ha detto che quando lui morirà lascerà il 99% delle sue azioni. Questo esattamente. In effetti, Antonio, la notizia è legata ai social, freschissima. Diciamo la storia di Natale, volendo anche sì, però non è per la data di nascita della bambina, però non era quella la notizia, perché in effetti è della settimana scorsa ancora, e mi sa che era stato già detto forse questa cosa domenica scorsa, può darsi, come personaggio, o anche 2 domeniche fa, qualcosa del genere. È un po' come Farinetti, adesso Farinetti è un po' decaduto, non Farinetti ci chiamano un più po' per che dire non Farinetti. Si sente, e anche la Cristoforetti forse è finito Expo, è per quello. Daniela da Brindisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Provo anch'io a indovinare. Vittorio, sì. Sgarbi. Perché? Per l'intervento e la riuscita dell'intervento, ma più per la polemica ho pensato a lui. Diciamo, sì, spieghiamo bene anche la polemica. Perché avrebbe detto di non aver fatto come Pino Daniele. Sì. E di non aver aspettato l'ambulanza. Troppo tempo e adesso è riuscito per recarsi all'ospedale. Insomma, Sgarbi colpito da un malore, operato nella notte, insomma, si è salvato, tutto bene. Si è salvato, siamo felicissimi per lui. Grazie Daniela. Non era il nostro personaggio della settimana, ma la ringraziamo molto l'aver chiamato. E così abbiamo detto anche questa notizia qua. Vai. scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, insegui la tua storia ovunque vada. E a noi questa canzone qua ci piace sempre, molto sempre, e tutte le volte che parliamo di biciclette dobbiamo per immancabile forza... salutiamo Frankie High Energy, ce lo dobbiamo infilare per forza. Allora, la notizia non si può fare nel mondo, viene dalla Germania, in realtà io domenica scorsa l'avevo già accennata, poi era fresca fresca, è troppo ghiotta, troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. La approfondiamo. Nasce il primo tratto di quella che sarà una vera e propria autostrada per le biciclette tra Essen e Duisburg, 20 chilometri, ma poi l'autostrada vera e propria sarà molto, 101 chilometri, molto più lunga, pensate, pazzesco per noi pensare a una cosa del genere in Italia, credo che sia abbastanza pazzesco. Ne parliamo con il direttore della Federazione Amici della Bicicletta FIAB, Francesco Baroncini, che ritroviamo. Buona domenica. Buona domenica a voi, buona domenica agli ascoltatori. Che naturalmente adesso si trova spasso in bici? No. Sì, ovviamente sì, sono in Versilia, a casa mia, che sono a spasso, c'è una bellissima giornata di sole, così. Ah, veramente? Spasso in bici? Sì, sì, sì, siamo sempre invidiosi quando sentiamo la domenica di chi è in giro a spasso in bici, che è ha più coraggio e più costanza di noi. No, anche perché bisogna dire che a Milano città andare a spasso in bici, sì, forse la domenica se c'è un po' meno traffico lo puoi fare, ma non è una cosa da fare in famiglia, andare a spasso in bici. Ma non è vero, in realtà no, si può fare tranquillamente anche a Milano città, ci vuole un pochino di attenzione ovviamente. Diciamo che bisogna, esatto, non si può essere rilassati così come si può fare magari in zone dove c'è un po' meno traffico, che uno va proprio bello tranquillo. A Milano bisogna stare attenti, ecco, questo volevo dire, perché si sa, ci sono molte insidie, il pavé, i binari del tram, oltre alle macchine. Baroncini, però questa notizia ne vogliamo parlare? Come l'abbiamo presa? Bene, l'abbiamo presa perché comunque la Germania per noi è uno dei modelli a cui ispirarsi, è un modello al quale vogliamo tendere. È ottima la notizia dell'autostrada per biciclette, perché questo significa che hanno moltissime persone che vanno al lavoro, si spostano regolarmente per andare al lavoro in bici. Già, hanno bisogno dell'infrastruttura. Perché una delle cose che si sottolineano negli articoli è che serve proprio ai pendolari, cioè non è solo una questione, diciamo, il piacere di andare in bicicletta. Non è per la domenica, come dicevi prima tu, è proprio per un uso quotidiano, andarci tutti i giorni. Assolutamente, la bicicletta deve essere un mezzo da usare tutti i giorni. E parlando a proposito di Milano, nonostante il pavimento e i binari, come FIAB abbiamo fatto di recente un progetto per incentivare le persone ad andare a lavorare in bicicletta, e più di 2000 persone in meno di un mese, e stiamo parlando di ottobre, non stiamo parlando di maggio, ha usato la bicicletta per andare al lavoro in bici, per cui ci sono tantissimi ciclisti anche a Milano che vanno al lavoro, che la usano perché è più facile, è più veloce e tutto sommato è anche più sicuro della macchina. Sì, anche se non sembra. Sì. Perché ci sono statistiche? I dati statistici dicono che la maggior parte degli incidenti avviene per la smettezione in macchina e in motorino rispetto ai ciclisti. I ciclisti magari si fanno più male perché non sono particolarmente protetti dalla struttura della macchina, ma hanno molte meno possibilità, e laddove ci sono le ciclabili, e io nell'ultimo anno e mezzo a Milano ho visto più ciclabili di quante ce n'erano prima, diventa facile usare la bici. A proposito delle ciclabili, restiamo un attimo ancora a Milano, no? Perdonateci questo piccolo conflitto di interessi, noi viviamo in questa città, però il discorso credo che valga anche per altre città. Certo. Queste piste ciclabili che stanno costruendo, Baroncini, come sono? Adesso non voglio fare il confronto con l'autostrada delle biciclette in Germania, però... io ho visto le foto, è straordinaria, perché proprio ci sono gli alberi intorno. Però è normale che fare il confronto, perché una cosa che diciamo spessissimo qua in trasmissione è il fatto che le piste ciclabili, per esempio a Milano, ci sono sono i chilometri sono tanti, però sono spesso spezzettate, quindi magari qualcuno non si fida di mandare il proprio figlio, perché magari i chilometri di pista ciclabile sono anche 6, ma se in mezzo ce n'è 2 di non pista ciclabile dove passano i tir è un problema. Quindi vedere improvvisamente 101 chilometri tutti in fila, tutti precisi, ci emoziona. Bello, che bello. Che ne pensa Baroccini? È vero, la battaglia che stiamo facendo come FIAB, e soprattutto la sta conducendo la FIAB di Milano, è proprio quella di mettere in rete tutte queste piste ciclabili in maniera che si possa fare un percorso continuo. Certo. Lo scopo del bike to work, del progetto che abbiamo avuto, è anche stato anche quello di raccogliere i flussi dei ciclisti, dei lavoratori ciclisti, in maniera da portare una mappa in comune e dire: guardate, questi sono i percorsi che vengono fatti, cerchiamo di intervenire lì piuttosto che altrove. Certo. La differenza che abbiamo ancora noi Italia con l'estero è proprio quella: all'estero è normale il concetto di rete ciclabile, si progettano direttamente le reti, si progetta 101 chilometri. In Italia ci stiamo arrivando. Ci sono dei progetti importanti anche che riguardano l'Italia. Uno, per esempio, ne abbiamo parlato molto anche noi, è quello della ciclabile lungo il Po. No, sarebbe quasi una delle ciclabili più lunghe d'Europa. Non ricordo più quanti chilometri tra Torino e Venezia. Un progetto sposato anche da Graziano Del Rio, il ministro Del Rio, però anche lì qualche anno che c'è questo progetto, ma sono tutti pezzettini un po' scollegati tra di loro. Ci arriveremo mai? Ci arriveremo sicuramente, perché grazie all'opera di FIAB, posso dire quasi in anteprima, stamattina è stata approvata al primo ramo del Parlamento la finanziaria. In finanziaria, grazie al lavoro di FIAB che c'è stato fatto di lobbying, ci sono i fondi sia per questa ciclovia, sì, sia per la ciclovia da Verona a Firenze, che è la ciclopista del sole. Verona-Firenze? Pazzesco. Verona-Firenze. Ci sta dando due notizie strepitose. Verona-Firenze non la conoscevo. Il progetto Vento invece ne abbiamo parlato molto, e è stato inserito un emendamento in legge di stabilità che finanzia con quanti soldini? Sono quasi 40 milioni in 3 anni, per il primo anno ce ne sono 12. È un'ottima notizia. E sono le prime, sostanzialmente sono lo stesso concetto dell'autostrada, sono grandi infrastrutture ciclabili, sì, da Verona a Firenze, che è il progetto di FIAB, considerate si passa da Modena a Bologna, da tutte quelle grandi zone urbanizzate, che serviranno al cicloturismo. È una notizia strepitosa, vai, merita un applauso, vai, eccolo qua. Poi bisogna vedere, però, perché noi gli annunci ne abbiamo raccontati. Però moltissimi. Se sentiamo 40 milioni, noi ci scatta l'applauso. 12 scatta milioni quest'anno per fare le ciclabili. Giustamente potrebbe dire: e le pensioni e gli esodati? E poi parte tutto il mondo di dire: ci sono problemi maggiori. Però anche questo è un problema che, se viene risolto, ne saremo tutti contenti. No, anche perché, Baroccini mi viene in soccorso, almeno per quanto riguarda la ciclabile lungo il Po, è anche un progetto di attrazione turistica, perché ormai c'è un turismo di ciclisti in giro per l'Europa, sul Danubio, in Francia, lungo la Loira, eccetera. Lo possiamo fare anche noi. Assolutamente, noi percepiamo pochissimo del flusso cicloturistico che c'è nel mondo. Lei consideri che per la Germania, recente indagine tedesca, tanto per citare sempre loro, l'Italia appare 4 volte nelle prime 10 tappe preferite dai cicloturisti tedeschi. Appare come Toscana, appare come Sud Tirol, ovviamente per questione di lingua, appare come Italia in generale e appare anche come Sud. Quindi dobbiamo intercettarlo ancora questo cicloturismo, assolutamente. Esatto, e la Verona Firenze va in questo senso. Benissimo. L'autostrada che serve ai cicloturisti del nord per scendere da noi, e le ferite di scarso cicloturismo serve alle persone che vivono lungo il percorso per fare l'autostrada da Essen della Ruhr. Bene, certo. Bene, benissimo, grazie Baroccini, lo salutiamo, ci lasciamo qua, abbiamo l'informazione sul traffico in realtà, però insomma, visto, volevamo commentare l'autostrada delle biciclette in Germania, abbiamo scoperto che è stata finanziata l'autostrada delle biciclette molto anche bello in Italia. Ma tra l'altro, visto che adesso dobbiamo dare la linea al traffico, fra un po', visto che ci sono anche le autostrade delle biciclette, ci saranno anche le informazioni sul traffico delle biciclette. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua. Allora abbiamo al telefono Sandra che ci chiama dalla provincia di Como. Buongiorno Sandra. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo rispondere allora al personaggio della settimana. Siamo tutto orecchi. Mi sembra un bel racconto di Natale al cuore di De Amicis, quel ragazzo che ha devoluto i soldi del suo regalo in beneficenza per i bambini dell'Africa. Non ricordo il nome, forse è Pietro, non so. Ma Sandra, dall'applauso si dovrebbe essere resa conto che ha vinto il premio, ha indovinato. La storia era esattamente questa, di questo ragazzino che ha devoluto i soldi 13 anni per la canna da pesca che doveva ricevere per Natale, invece li ha donati ad Amref in beneficenza. Solo che poi sulla pagina Facebook proprio di questa Onlus si è scatenato una serie di reazioni e lo hanno addirittura insultato. Quando abbiamo iniziato la puntata parlando di bullismo, eccolo qua, tra l'altro un bullismo di una stupidità folle, incomprensibile. Prima gli italiani sono stati alcuni commenti, ma insomma sarà libero di scegliere se comparsi la canna da pesca per o aiutare un bambino in Africa. Nel senso, prima gli italiani con le canne da pesca piuttosto che invece gli immigrati che stanno morendo di fame in Africa, aiutiamoli in Africa, ma forse prima i pesci italiani, pesci italiani con cui pescare con la canna da pesca e poi dopo far mangiare tutti. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. To show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Ma che bella domenica mattina, senti? C'è il sole, c'è la musica, c'è tutto. E c'è anche una bella idea per un regalo di Natale. Ma sì, mettiamola così. Andate subito a digitare, se siete con uno smartphone o se siete a casa col computer, fatto-bene.com, che è un progetto. Ce ne parla Anna Lagorio. Buongiorno Anna. Buongiorno Alessio, buongiorno. Buona domenica. Anche lei è un ex giornalista, perché non si è ex giornalisti, che però si è inventata. Cioè, giornalisti si nasce, E si rimane. Ti ricordi che la settimana scorsa abbiamo fatto un altro progetto, sempre di una giornalista che aveva fatto il progetto Ecco Pecorelle, no? Certo, ecco. Certo. Allora, qua abbiamo i giornalisti che sono quelli che più bravi a inventarsi dei progetti. O perlomeno dei progetti notiziabili, come notiziabili. Però qua entriamo nella questione del giornalismo. È vero, assolutamente d'accordo. Allora, l'idea che hai avuto tu con il tuo compagno Alex Carnevali è quello di fare che cosa? Di andare a recuperare dei prodotti della tradizione italiana, belli, di gusto, di grande gusto, però quasi diventati introvabili. Esatto. Allora, noi, devo dirti, abbiamo iniziato questa nostra ricerca per la creazione di Fatto Bene in maniera completamente casuale, nel senso che stavamo facendo un viaggio e ci siamo accorti che in un bar in Calabria stavamo bevendo una bevanda al caffè che ci era piaciuta molto proprio dal punto di vista del suo packaging, e poi guardando in giro per l'Italia non l'abbiamo più trovata, e così ci siamo detti: ma che strana questa cosa, che ci dei prodotti che non riescono, anche se sono prodotti industriali, a uscire dalla propria regione. Io, in quanto giornalista, per l'appunto, ho iniziato a raddrizzare le antenne e a incuriosirmi, per cui ho iniziato a fare una ricerca su tutti quegli oggetti del patrimonio industriale italiano che in un modo o nell'altro abbiamo incrociato prima o poi nella nostra vita, ma di cui non si sentiva più parlare. Penso ad esempio a cose molto semplici come la coccoina, piuttosto che le crystal ball, che sono un gioco che facevamo da bambini negli anni 80. Perché è italiano? È italiano il crystal ball? È italiano, e la cosa veramente buffa è che è diventato un grande culto negli anni 80, ma in realtà è nato nel 1947, quindi 2 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono inventati queste bolle infrangibili per far giocare i bambini, ma all'inizio non aveva avuto nessun successo, anche perché chiaramente le famiglie italiane non si potevano permettere di comprare un gioco ai bambini quando c'era da ricostruire l'Italia. E quindi la visione dell'imprenditore imprenditore che ha realizzato questo gioco è stata proprio quella di dire: aspettiamo che i tempi siano maturi. I tempi poi sono maturati, e come? Ma poi ci sono anche saponi, tessuti, il rosolio. Che cos'è, esatto, il rosolio? Esatto. Senti, il rosolio è una bevanda tradizionale, anche questa, molto dolce. Ancora oggi si fanno in alcune regioni, non da tutte le parti, perché alcuni lo confondono con la bevanda alcolica. In realtà è una bevanda dolce. A Genova, ad esempio, fanno delle caramelline ricoperte di zucchero di tutti i colori, che sono molto belle. Si chiamano ginevrine, che dentro hanno proprio il rosolio. Goccia di certo, rosolio. Certo, sono buonissime. E voi che cosa fate? E questi prodotti intanto li avete messi in vetrina sul sito fatto-bene.com, esatto. E poi, in attesa, diciamo, di fare una propria commercializzazione, per il momento avete fatto una scatola, che è un'idea, esatto, di regalo di Natale. Esattamente, sì. Allora, noi abbiamo pensato, visto che ci arrivavano molte richieste, le persone hanno iniziato a leggere il nostro sito e ci scrivevano chiedendoci: sì, molto belli, ma dove li possiamo comprare? Perché non si trovano. E quindi da lì l'idea di fare il sul vostro sito adesso, assolutamente, esatto, si comincia per inaugurarlo. Ecco. Abbiamo lanciato, ti dico, meno di un mese fa, sì, lo shop, e lo abbiamo inaugurato con questa scatola che abbiamo pensato naturalmente per dimmi il solo Natale. Due cose che dobbiamo chiudere velocissimo: quanti okay. prodotti sono e quanto costa? Sono 5 prodotti, siamo proprio un piccolo viaggio nel patrimonio industriale e costa 38 euro. È un'idea regalo bellissima, Made in Italy, fatto bene, grazie Anna Lagorio, dobbiamo chiudere. Un abbraccio e auguri anche per la vostra startup. Ciao a tutti. Ci sentiamo quando ci sentiamo? Ci sentiamo dopo Natale, quindi buon Natale. Poi ci sentiremo anche probabilmente nei giorni 28, 29, 30 e 31, esatto, nell'orario della Zanzara. Grazie a Lorenzo Nespoli, Carmelo Lucella, Andrea